parola e poi chiuderemo i lavori. Ritrovarci stasera dal professor Armando Savignano, silenzio e inquietudine religiosa in Bremont. Dunque, sarò estremamente breve, anche perché l'ora è tardi, ma soprattutto vorrei dare qualche avvertimento iniziale, sono questi. Questa comunicazione andava collocata, ma per ragioni di tempo non è stato possibile, ieri, appunto tenendo presente ciò che ha detto sia Sergio Quinzio che l'amico Baldini, appunto sul problema del misticismo e sul tema dell'esperienza religiosa. Ma in ogni caso la memoria spero ci sorregga e quindi potremmo ristabilire quell'atmosfera culturale. E un secondo avvertimento è questo: io dirò soltanto, mi soffermerò su un punto centrale, che è appunto il tema è il silenzio di Dio e l'inquietudine religiosa in Bremont, e per il resto tralascio molte cose, ma in ogni caso, e mi scuso di questo che sto dicendo, io ho pubblicato una monografia su questo pensatore accademico di Francia, nato nel 1866, morto nel 1933, e ho anche curato la traduzione italiana di una delle sue opere più celebri, quella che ha detto origine alla famosa querelle sulla poesia pura, dal titolo Preghiera e poesia per la Rusconi. No, credo che Bremont non abbia bisogno di presentazioni, forse l'Italia non è penetrato più di tanto, soprattutto per la sua vicenda e la sua attitudine nei confronti del modernismo, amico di Loisy, di Tyrrell, e chi in Italia ha continuato questa tradizione, non modernista certamente, ma almeno nelle sue orme, è stato Giuseppe De Luca, con l'Archivio italiano per la storia della pietà, perché, come sapete, Bremont ha scritto quella monumentale Histoire littéraire du sentiment religieux en France, ed è stato, come già diceva Baldini ieri, lo scopritore, in realtà, di questa turba magna del misticismo nel grande secolo francese. Dopo di lui altri hanno ripreso questo cammino, da lui tracciato, nel bene e nel male, perché naturalmente tutte le interpretazioni storiche di Bremont, alcune sono state discutibili e tuttora sono discusse, ma non si può negare che a lui il merito di aver scoperto il misticismo, almeno nel grande secolo, che non è più ormai, possiamo dire, dopo Bremont e sulla sua scia, il secolo di Fénelon e Bossuet soltanto nel secolo di Cartesio e Port-Royal, ma appunto il secolo della mistica, soprattutto come egli mostra in questa Histoire littéraire. E è stato anche colui che ha introdotto Newman in Francia, e soprattutto, e non parlerò di questo, ma su questo ho avuto modo di scrivere, appunto, quello che ha partecipato attivamente al movimento modernista. Io vorrei soffermarmi brevissimamente sul tema del silenzio di Dio, che è appunto il tema poi del convegno, e dell'inquietudine religiosa. Bremont ha scritto due libri celebri, uno appunto proprio dal titolo Inquietude religieuse, uno del 1901, l'altro nel 1930, e vorrei soffermarmi invece per il punto centrale del silenzio di Dio, che a mio avviso è la tesi di fondo di questo pensatore, sul volume settimo ed ottavo della Histoire littéraire, che si chiama appunto La métaphysique des saints, la metafisica dei santi. Ecco, che cos'è questa metafisica dei santi? Per Bremont è appunto una metafisica che si basa e vive del silenzio di Dio e dell'inquietudine religiosa. E quindi questa esperienza religiosa moderna per Bremont concerne appunto la fede nuda, che è appunto nuda presenza della realtà divina, che si caratterizza quindi per la sua assenza, soprattutto nelle crisi di aridità, di desolazione e di silenzio di Dio, senza alcun intermediario intellettuale, sentimentale e volitivo, pena lo slittamento nelle opposte attitudini ascetistiche, che hanno tra l'altro contribuito alla riduzione della religione alla morale, e panedonistiche, culminanti in una visione della religione dalle certezze tranquillizzanti e quindi senza inquietudine. Che cos'è l'ascetismo e il panedonismo? Sono due grandi filoni spirituali che Bremont ha scoperto, e qui ancora una volta nel bene e nel male, e che appunto ha descritto nell'Histoire littéraire. Tali tendenze sono state, per Bremont, l'ascetismo e il panedonismo, ascetismo per nulla ascetica, tali tendenze sono state quantomeno corresponsabili della ritirata e discredito della più genuina tradizione mistica, anima ed essenza della religione. Bremont condivide la tesi che la mistica è essenza della religione. In conseguenza dell'inevitabile apogeo del razionalismo e dello scientismo. Proprio per sfuggire a questi esiti, fatali per la stessa sopravvivenza della fede e del misticismo, e non senza simpatie per il movimento modernista, Bremont, col suo gusto del paradosso e dell'esagerazione, si è prodotto in una critica serrata a tale Bertrand, cadendo però, a mio avviso, nell'eccesso opposto, in una filosofia, cioè, del silenzio, dell'intento di mostrare che l'oggetto della fede e la natura della religione è di un altro ordine, è totalmente altro, esperito però al di là della coscienza, senza mediazione delle facoltà di superficie, giudicando inoltre inessenziali le realtà dogmatiche e costituzionali. E vivere fuori il modernismo, naturalmente. A tale scopo si è cimentato in un libro, a mio avviso, impossibile, nell'individuazione dei criteri epistemologici, con le celebri distinzioni tra la ragione ragionante e l'intuizione, l'appello all'io profondo al centro dell'anima rispetto a quello di superficie, il riferimento al crodeliano col crodel, col male formico e del quale abbiamo la corrispondenza, al dialogo quindi tra animus e anima, e questo tentativo è in connessione con una originale antropologia dell'esperienza spirituale, basato su un equilibrio tra le istanze che egli chiama antropocentriche e quelle teocentriche, non disgiungendo gli apporti storico-ermeneutici mutuati dalla ricerca del sentimento religioso nel grande secolo e quindi soprattutto anche di motivi filosofici e teologici. Come dicevo, l'inquietudine religiosa è uno dei motivi centrali della speculazione premondiale. Questo libro è importante perché in esso egli cerca di descrivere quelle crisi che sfociano fino all'aridità. A tale problematica ha dedicato suggestive analisi, come ad esempio quella riguardante l'amnè, che avrebbe sofferto più di altri per il silenzio di Dio. In ragione, appunto, dice Bremont, dell'attitudine panedonistica, propugnatrice di una fallace mescolanza, di una grazia di favori sensibili con la verità stessa della fede, oppure quella concernente l'evoluzione della fede al dubbio dell'anglicano Green. Naturalmente non è il caso qui allora di analizzare questa storia letteraria, sia nei suoi meriti, ma anche nei problemi che ha suscitato, e è solo il caso qui di riferire appunto che questa non è una storia soltanto, perché Bremont si incarica di fare anche una metafisica, di dedurre una metafisica della storia. Non è soltanto una storia letteraria, perché egli invece cerca di descrivere la psicologia religiosa e quindi entrare nell'intimo, basandosi non soltanto sui documenti, né è una storia paradossalmente del sentimento religioso, perché ciò che in realtà Bremont pone in luce è proprio l'assenza del sentimento, perché questa assenza è fondamentale, in quanto sono decisivi gli stati di aridità, o come egli chiama, di fede nuda, come rimedio più efficace all'illusione di una fede dalle certezze tranquillizzanti, meglio l'inquietudine religiosa che la certezza tranquillizzante della fede. E naturalmente non è neanche una storia dalla fine delle guerre di religione ai giorni nostri, perché l'opera si interruppe con la morte del Bremont nel 1933. Come appunto dicevo, l'aspetto fondamentale di questa storia letteraria, almeno nella tesi di fondo, come egli la chiama, la grande sintesi a cui egli lavorò appunto nel volume 7-8, che si chiama appunto La metafisica del sento, è appunto questo tema riguardante il silenzio di Dio e l'esperienza religiosa vissuta. Per Bremont, questo tema del silenzio di Dio è centrale, a tal punto che egli scrive come motto: Dio è maggiormente presente allorché tace. Dio è maggiormente presente quando è assente. Questo è il motivo primordiale. Qui non posso aprire un'altra parentesi su quel celebre classico tema del sentimento di presenza, che in Bremont diventa presenza-assenza, in cui il silenzio ha una valenza, come diceva ieri Quinzio, non solo negativa ma soprattutto positiva. Questa grande sintesi e in definitiva la filosofia della religione di Bremont è espressa in questa Metafisica dei Santi, il cui tema centrale concerne, sono sue parole, l'inadeguatezza tra la conoscenza religiosa e il reale assente della fede. La risposta tende a costituire una dottrina che renda conto del vissuto, ad elaborare una filosofia del silenzio a partire dall'inquietudine religiosa. Da questo lato, la metafisica dei santi, per Bremont, è una interpretazione ed una giustificazione dell'esperienza religiosa moderna, se si considera l'ambiguità di un termine che può designare come moderno, ma a titolo diverso, il XVII secolo e soprattutto il XX. Si tratta dunque di delineare non una teologia, né una mera storia, ma una metafisica dei santi, diversa perciò da quella filosofia della santità tentata di Brondel e anche diversa da quella psicologia religiosa di cui parlava Genesi. E il motivo centrale di questa metafisica dei santi è proprio il tema del silenzio di Dio. E questo, perciò questo tema del silenzio di Dio, che è appunto l'oggetto della fede e soprattutto l'oggetto dell'esperienza nella mistica, è costituito da una presenza assente, indicibile, il rapporto tra silenzio e parola, inesprimibile, e pur tuttavia l'unica veramente reale ed autenticamente vera, a condizione di mettere in esercizio tutta un'adeguata psicologia, antropologia e criteriologia del divino, oggi diremo epistemologia. L'essenza della vita religiosa, che è poi la preghiera pura, è il famoso motivo di Bremont, la preghiera pura e la poesia pura, è così concepita a partire da una duplice riduzione, sia del fatto religioso alla preghiera, sia di quest'ultima, che si pretende presente in tutte le forme e specie di orazione e soprattutto in relazione ad uno stato soggettivo estremo, la desolazione. Di qui l'esclusione da una ricerca dell'essenziale sia delle istituzioni religiose sia della conoscenza intellettuale, l'antiintellettualismo è uno dei motivi, non solo di Bremont, ma di tutta l'epoca, almeno a cavallo tra il XIX e il XX secolo, sia dalle consolazioni dello spirituale, questo fanedonismo di cui vi parlo. L'essenza dunque invece sarà dell'ordine dell'intimo e sarà legata ad una forza limite della coscienza. Per accedervi è improporzionale solo una critica dell'oggetto religioso, sia come realtà sociale, sia come oggetto pensato, sentito e voluto. Implicato in ogni sviluppo spirituale, tale critica dell'oggetto corrisponde ad un altro fatto molto caratteristico dell'epoca moderna. La scomparsa dell'oggetto, o più esattamente del segno oggettivo. Ponendo quantomeno in secondo piano le realtà oggettive della religione rispetto agli stati d'animo e di coscienza, Bremont formula anche una critica sia alle istanze panedonistiche sia ascetistiche. Dal momento che Dio è presente intimamente all'uomo, non è presente all'uomo né tramite uno sforzo morale, né mediante la volontà, né col concorso del sentimento, né attraverso la mediazione intellettuale. E la ragione è che l'esperienza religiosa è irriducibile alla sfera etica, né si attua col concorso delle cosiddette facoltà di superficie, in fondo la ragione e l'intellettualismo, naturalmente, ma essa è di un altro ordine ed ha per oggetto un'esperienza unitiva col totalmente altro. Ma dico io a quale prezzo, sia a livello epistemologico ermeneutico, sia psicologico metafisico ed in definitivo teologico. Bremont è infatti paradossalmente costretto ad affermare che l'esperienza mistica permea tutta l'umanità, il famoso misticismo democratico, il misticismo universale, aperto a tutti di quelli. Anche se è identica, anche se non è identica quanto al contenuto, naturalmente, che può concernere una unione silenziosa con Dio, la quale unione, però, ha come contraccolpo niente meno che l'incoscienza. È un orizzonte incoglibile, una vita segreta, un istinto spirituale al quale il cristiano aderisce quando accetta una santa disperazione, quando il vuoto diventa il luogo di un amore disperato che non ha e non cerca nulla, quando la fede trasmuta il sentimento di essere abbandonati in una disperazione amorosa. E questa essenza del puro amore ha dedicato una celebre monografia al Fenelon e tutte le polemiche che seguirono questo autore. L'essenza del puro amore quindi non è altro che lo stabilirsi in quella santa disperazione che gli spirituali chiamano amore disperato o disperazione amorosa e che denota una così grande purezza d'amore. Ora tutto ciò è possibile naturalmente soltanto se siamo in presenza di questa filosofia del silenzio e di questa esperienza di Dio, del divino, che si attua però sotto la forma dell'assenza e, dice Bremont, dell'incoscienza. Proprio perché l'essenza della preghiera, che non dimentichiamo per lui coincide con l'esperienza religiosa, è mistica, e quindi in quanto concerne la realtà nascosta alla quale rimanda l'assenza di sentimento ed è pura, cioè disinteressata e di conseguenza basata sull'accettazione di tale predetta essenza come norma della come legge della vita spirituale, è ineludibile la negazione di ogni mediazione, sia d'ordine soggettivo e oggettivo sociale, sia degli apporti delle facoltà di superficie. Per mostrare ciò, Bremont ha tentato di lavorare una corrispondente ed adeguata teoria epistemologica, incentrata sulla celebre distinzione cloderiana tra animus ed anima, tra la ragione e l'intuizione, tra la conoscenza nozionale e quella reale, sull'influsso di Newman, non una corrispondente visione antropologica basata su un equilibrato rapporto, soprattutto a seguito delle dispute con Blondel tra le istanze antropocentriche e quelle teocentriche, e quindi ultimamente filosofiche e teologiche, impermeate sul rifiuto delle astrazioni e razionalistiche e delle attitudini ascetiche e panedonistiche, con una conseguente visione ottimistica della natura umana, essenzialmente Capax Dei, e qui c'è tutto un flusso dei pensatori inglesi, pertanto aperto almeno negativamente al soprannaturale per grazie. Credo di avviare la conclusione, forse salto un po' qualche cosa, ma troverete un po' scritto queste cose che sto dicendo. Direi, per concludere, Bremont è tuttavia... Tuttavia avverte, a mio avviso, una grande divaricazione tra una consapevolezza per il manifestarsi di una frattura, di una divaricazione tra lo spirituale, il vissuto, da un lato, e il nozionale, esemplificato nelle difficoltà della fede, e non solo nel grande secolo, di riconoscersi, identificarsi, in definitiva, confessarsi e verificarsi in riferimento agli oggetti e dal linguaggio proposti al credente. Tale inquietudine e persino angoscia per questa sottile divaricazione tra la religione oggettivata e l'esperienza soggettiva della fede, carica di tutte le tentazioni e le tensioni della coscienza moderna, era già in luce nell'apologia per Fenelon, nella quale Bremont contrapponeva alla tranquillità dell'attitudine panedonistica, basata sulla certezza conseguente ai santi diletti e alle consolazioni sensibili, il tormento, l'insicurezza, l'inquietudine di chi invece sperimentava nel puro amore il silenzio di Dio. Ma proprio ciò che sembrava fonte di certezza e tranquillità in opposizione all'inquieto e paradossale si rivelerà, nota Bremont, e tutta l'histoire e tutta la storia del misticismo che egli ha narrato sia dall'apogeo e anche alla caduta e al tramonto del misticismo, responsabile secondo Bremont all'epoca moderna con lo scientismo e il razionalismo, dicevo, questo che sembrava fondo di tranquillità e quindi di certezza, in realtà per Bremont si tramuterà nel mondo contemporaneo in inesorabile miscredenza per l'imperio appunto del nozionale fino al razionalismo, responsabile tra l'altro dello scientismo e soprattutto del discredito, in definitiva della caduta del misticismo, almeno in quel famoso e celebre dibattito che appassionò tra il XIX e il XX secolo la cultura non solo francese ma anche americana, appunto, che aveva come temi i rapporti tra scienza, psicologia e misticismo, sul quale anche mi sono intrattenuto in un libro che si chiama Da James a Bergson. Meglio la fede nuda, dice Bremont, il paradosso dell'operante aridità del puro amore, il silenzio di Fenelon che una religione dalle certezze tranquillizzanti, o il pio egoismo di Bossuet mutuato dagli artifici dei santi diletti. Rispetto a questi interrogativi, Bremont tenta, a mio avviso, una via nuova, basata su un'antropologia dell'esperienza spirituale in funzione di un'inquietudine nuova, che addita un'esperienza del totalmente altro, senza però mediazione, anzi addirittura tramite la nuda via del silenzio e dell'incoscienza. A buon diritto però la sua posizione è risultata sospetta e sarà attaccata sia sul piano filosofico che sul terreno storico e nell'ambito teologico. E tuttavia, come scrive De Certeau, del quale si parlava ieri, del quale è stata tradotta la favola mistica, che era stato, ha scritto numerosi saggi su Bremont e ha lavorato sulla scia di questo pensatore, tuttavia, come scrive De Certeau, egli vede qualcosa. Forse ha torto in ciò che afferma, ma ha ragione in ciò che reclama. Egli pone in ogni caso un grande problema di filosofia religiosa, ma in un modo non filosofico. Secondo un'espressione a lui cara, egli è un filosofo rustico. Grazie per l'attenzione. L'appuntamento è per stasera.